Capitolo 4. Avevo invitato le donne a unirsi a me nel colpire il governo nell'unica cosa di cui si preoccupavano davvero i governi, la proprietà, e la risposta fu immediata. Nel giro di pochi giorni i giornali si riempirono con la storia dell'assalto sferrato alle cassette delle lettere di Londra, Liverpool, Birmingham, Bristol e una mezza dozzina di altre città. In certi casi le cassette, una volta aperte dai postini, prendevano misteriosamente fuoco. In altri le lettere venivano distrutte da sostanze chimiche corrosive, in altri ancora gli indirizzi erano resi illeggibili da liquidi scuri. Nel complesso si stimò che oltre 5.000 lettere andarono completamente distrutte e altre diverse migliaia furono recapitate in ritardo. Questi atti di protesta, consistenti appunto nel rovinare le lettere, furono considerati nella loro profonda gravità. Ma noi sentivamo di dover fare qualcosa di ancora più drastico per rompere l'apatia degli uomini inglesi che guardavano con indifferenza le sofferenze delle donne oppresse da leggi ingiuste. Come facciamo notare, le lettere, per quanto preziose possano essere, sono meno preziose dei corpi e delle anime umane. Questo fatto fu universalmente riconosciuto all'affondamento del Titanic. Lettere e oggetti di valore svanirono per sempre, ma la loro scomparsa fu messa in secondo piano dalla ben più terribile perdita di un gran numero di vite umane. E quindi, al fine di richiamare l'attenzione su crimini più grandi ai danni degli esseri umani, i nostri roghi di lettere continuarono. Soltanto in pochi casi i trasgressori furono catturati, e una delle poche donne arrestate fu una povera inferma, una donna che poteva muoversi unicamente in sedia a rotelle. Ebbe una condanna a 8 mesi di carcere in prima divisione, e determinata a effettuare lo sciopero della fame, fu alimentata a forza, con inusuale brutalità. Con il medico della prigione che le ruppe deliberatamente un dente allo scopo di inserirle un divaricatore in bocca. Malgrado la sua disabilità e la sua debolezza, la povera ragazza persisté nello sciopero della fame e nell'opporsi alle regole del carcere e in breve dovette essere rilasciata. Le sproporzionate condanne delle altre distruttrici di cassette postali si conclusero in periodi di detenzione più corti per via della resistenza delle prigioniere, ciascuna delle quali adottò lo sciopero della fame. Avendo dimostrato al governo che eravamo tremendamente sincere quando avevamo dichiarato che avremmo condotto una guerriglia e che non saremmo rimaste chiuse in prigione, annunciammo una tregua allo scopo di dare al governo l'opportunità di mantenere la promessa riguardo all'emendamento sul suffragio femminile al Franchise Bill. Non credevamo per il momento che Asquith intendesse mantenere la parola. Sapevamo che l'avrebbe infranta se poteva, ma c'era una remota possibilità che non sarebbe riuscito a farlo. Comunque, il vero motivo per cui dichiarammo la tregua era che credevamo che il primo ministro avrebbe trovato il modo di sottrarsi alla sua promessa, ed eravamo convinte che la colpa sarebbe ricaduta non sulle militanti, ma sulle spalle del vero traditore. Ripassammo in rassegna la storia dei trascorsi progetti di legge sul suffragio. Nel 1908 il governo aveva superato la seconda lettura, con una maggioranza di 179 voti, e poi Asquith le aveva impedito di andare avanti. Nel 1910 il Conciliation Bill aveva passato la seconda lettura con una maggioranza di 110 e Asquith aveva nuovamente bloccato il suo avanzamento, promettendo che se il progetto fosse stato ripresentato nel 1911, in forma tale da renderlo disponibile a liberi emendamenti, le avrebbe concesso tutte le agevolazioni, perché potesse trasformarsi in legge. Tali condizioni furono rispettate nel 1911 e vedemmo come il progetto di legge, dopo aver incassato la maggioranza aumentata a 167 voti, fu silurato dalla presentazione di un progetto di legge governativo sul suffragio maschile. Asquith questa volta aveva promesso che il progetto sarebbe stato concepito in modo da accogliere un emendamento sul suffragio femminile, promettendo inoltre che nel caso in cui l'emendamento avesse raggiunto la seconda lettura, avrebbe consentito alla modifica di entrare a far parte del progetto di legge. L'esatta modalità con cui il governo sarebbe riuscito a svincolare dalla sua promessa era ormai diventata materia di animate discussioni. Girarono voci di ogni genere. Alcune paventavano le dimissioni del primo ministro, altre suggerivano la possibilità di nuove elezioni, altre ancora sostenevano che il progetto di legge emendato avrebbe condotto a un forzoso referendum sul suffragio femminile. Qualcuno disse anche che l'intenzione del governo era di ritardare il progetto di legge di modo che dopo il passaggio alla Camera sarebbe rimasto escluso dai vantaggi delle leggi parlamentari, in base alla norma secondo cui un progetto di legge, il cui ritardo superi i primi 2 anni di vita di una legislatura, non ha alcuna possibilità di giungere all'esame dei Lord. Per poter diventare legge senza l'approvazione della Camera dei Lord, un progetto deve passare 3 volte in Camera dei Comuni. Le prospettive che un progetto di legge sul suffragio femminile riuscisse in un'impresa del genere erano praticamente nulle. Il signor Asquith non smentì nello specifico nessuna delle voci che circolavano e di fatto l'unica dichiarazione positiva che fece riguardo al Frankie's Bill fu che riteneva assai improbabile che la Camera passasse un emendamento sul suffragio femminile. Al fine di scoraggiare il sentimento favorevole verso il suffragio femminile alla Camera, Lloyd George e Lewis Ercour si adoperarono nuovamente a diffondere pessimistiche profezie circa una spaccatura del governo nel caso di presentazione dell'emendamento. Nessun'altra minaccia, lo sapevano bene, avrebbe terrorizzato di più i timidi deputati liberali senza incarichi di governo, i quali, oltre alla loro cieca fedeltà al partito, avevano paura di perdere la poltrona alle elezioni generali, che avrebbero fatto inevitabilmente seguito a una tale spaccatura. Pur di non mettere a rischio le loro cariche politiche, erano disposti a sacrificare qualsiasi principio. Ovviamente l'accenno a un'eventuale spaccatura del governo era un'autentica stupidaggine e riuscì a ingannare solo pochi parlamentari. Ma chiarì comunque una cosa, e cioè che la promessa di Asquith che la Camera sarebbe stata totalmente libera di decidere sulla questione del suffragio e che il Consiglio dei Ministri si sarebbe inchinato al volere della Camera non sarebbe mai stata mantenuta. Il Frankie's Bill, non emendato, negava a parole chiare il diritto di ogni donna a votare. Sir Edward Grey propose un emendamento per cancellare dal progetto di legge la parola maschio, in modo da fare spazio a un emendamento sul suffragio femminile. Furono proposti poi 2 emendamenti simili, uno per concedere il diritto di voto a tutti gli elettori adulti, uomini e donne, e l'altro per concedere il voto alle donne possidenti e alle mogli dei possidenti. Quest'ultimo emendamento spostava l'età del voto delle donne a 25 anni contro i 21 degli uomini. Il 24 gennaio 1913 fu aperta la discussione sul primo di questi emendamenti. Un giorno e mezzo fu destinato all'esame dell'emendamento di Sir Edward Grey, che se fosse passato avrebbe aperto la strada anche ad altri 2, a cui fu assegnato un terzo di giorno ciascuno. Avevamo organizzato dei grandi raduni da tenere in ognuna delle giornate dei dibattiti e il giorno prima dell'apertura inviammo una delegazione di lavoratrici guidata dalla signora Drummond e dalla signorina Annie Kenny a colloquio col signor Lloyd George e con Sir Edward Grey. Avevamo chiesto ad Asquith di ricevere la delegazione, ma come al solito aveva respinto la richiesta. La delegazione era formata dalle 2 leader, 4 operaie di un cotonificio del Lancashire, 4 umili commercianti di Londra, 2 ragazze delle miniere di carbone, 2 insegnanti, 2 infermiere qualificate, una commessa, una lavandaia, un operaio di un calzaturificio e una cameriera, 20 in tutto, il numero esatto specificato da Lloyd George. Alcune centinaia di lavoratrici scortarono la delegazione fino alla residenza ufficiale del cancelliere dello scacchiere e attesero ansiosamente per strada l'esito del colloquio. L'esito fu ovviamente improduttivo. Lloyd George ribadì con noncuranza la sua fiducia nella grande opportunità offerta dal Frankie's Bill. E Sir Edward Grey, ricordando alle donne la divergenza di opinione dei ministri del Consiglio sulla questione del suffragio, diede loro per certo che la migliore opportunità di successo stava in un emendamento all'attuale progetto di legge. Le donne parlarono con grande franchezza ai 2 ministri e li incalzarono sull'affidabilità della promessa del primo ministro di accettare gli emendamenti nel caso fosse passato il Frankie's Bill. La politica inglese era fondata a un tale livello di infamia che le donne potevano mettere apertamente in dubbio la parola data dal capo dei ministri del re. La signora Drummond, che non prova alcun timore riverenziale, invitò con parole chiare l'evasivo Lloyd George a eliminare ogni ombra di ignominia dalla sua posizione. Chiudendo il suo discorso, gli sottopose la questione senza tanti giri di parole. Insomma, signor Lloyd George, vi siete incollato tenacemente alle pensioni di anzianità e alla legge sulle assicurazioni sanitarie e le avete difese. E quello che avete fatto per quelle misure lo potete fare anche per le donne. La Camera si riunì il pomeriggio seguente per discutere il permissivo emendamento di Sir Edward Grey, ma non passò molto dall'apertura del dibattito che una vera e propria bomba fu lanciata sulla scena. Il signor Bonar Law si alzò in piedi e chiese un pronunciamento sulla costituzionalità dell'emendamento sul suffragio femminile al progetto di legge così come era strutturato. Lo speaker, che oltre a svolgere le funzioni di presidente della Camera, ne è anche il portavoce ufficiale, replicò che secondo lui un tale emendamento avrebbe avuto un forte effetto sul progetto di legge e che lui sarebbe stato obbligato, in una fase successiva del dibattito, a valutare attentamente se nel caso fosse passato, un qualsiasi emendamento sul suffragio femminile avrebbe alterato materialmente il progetto al punto da doverlo ritirare. A dispetto di questo sinistro pronunciamento, la Camera continuò a discutere l'emendamento Gray, che fu abilmente supportato da Lord Hugh Cecil, Sir John Rolleston e altri. Durante i 2 fine settimana di vacanze intercorsi nel frattempo, si erano tenuti 2 consigli di gabinetto e quando la Camera si riunì a lunedì, il primo ministro invitò lo speaker a pronunciarsi. Lo speaker dichiarò che secondo lui il passaggio di uno qualsiasi degli emendamenti sul suffragio femminile avrebbe alterato lo scopo del Frankish Bill, dando vita in pratica a un nuovo progetto di legge, perché la misura, così come era strutturata, non aveva come obiettivo primario la concessione del diritto di voto a una categoria finora esclusa. Se fosse stato concepito in questo modo, un emendamento sul suffragio femminile sarebbe stato del tutto appropriato. Ma l'obiettivo principale del progetto di legge era quello di modificare il requisito o il fondamento della registrazione per accedere al voto parlamentare. Avrebbe incrementato l'elettorato maschile, ma solo come risultato indiretto del cambiamento dei requisiti. Un emendamento al progetto che rimuoveva la barriera del sesso dalle leggi elettorali non era, nell'opinione dello speaker, corretto. Il primo ministro annunciò poi le intenzioni del gabinetto, che consistevano nel ritirare il Frankish Bill e nell'astenersi dal presentare durante quella sessione un progetto di legge sul voto multiplo. Asquith ammise blandamente che la sua promessa riguardo al suffragio femminile era stata resa impossibile da adempiere e disse che si sentiva orientato a fare una nuova promessa. Ce n'erano soltanto 2 che poteva fare. La prima era che il governo presentasse un progetto di legge per concedere il voto alle donne, e questo il governo non l'avrebbe fatto. La seconda era che il governo concedesse tutte le agevolazioni entro un certo periodo, durante la prossima seduta del Parlamento, a un progetto di legge di un parlamentare non governativo. Questa è la strada che il governo decise di imboccare. Asquith ebbe la sfacciataggine di dire in conclusione che pensava che la Camera dovesse riconoscergli di essersi battuto e di essere riuscita a portare a compimento, tanto nella lettera quanto nello spirito, tutti gli impegni che il governo aveva assunto. Soltanto 2 membri, Anderson e Keir Hardie, ebbero il coraggio di alzarsi in piedi e denunciare il tradimento del governo, perché di tradimento senza dubbio si trattava. Asquith aveva dato la sua parola d'onore che avrebbe presentato un progetto di legge capace di accogliere un emendamento per includervi il suffragio femminile e aveva strutturato un progetto di legge che invece non poteva essere modificato in tal senso. Se lo aveva fatto deliberatamente o se l'ignoranza delle regole parlamentari aveva portato al fallimento del progetto di legge, questo contava poco. Il progetto di legge non aveva proprio bisogno di essere concepito nell'ignoranza. Si sarebbe potuto consultare la fonte di saggezza rappresentata dal Presidente della Camera, quando il progetto di legge era ancora in costruzione con la stessa facilità con cui era stato fatto nella fase del dibattito. Il nostro giornale, incarnando ed esprimendo chiaramente l'opinione dei nostri membri, disse nell'editoriale: o il governo è ignorante della procedura parlamentare al punto da essere inadatto a occupare una qualsiasi posizione di responsabilità, oppure è formato da canaglie della peggior specie. Sono incline a credere che il verdetto dei posteri propenderà verso la seconda conclusione. Se Asquith fosse stato un uomo d'onore, avrebbe riformulato il Frankish Bill in modo che potesse accogliere un emendamento sul suffragio, oppure avrebbe rimediato al suo stupefacente abbaglio, se di abbaglio si trattava, introducendo una misura del governo sul suffragio femminile. Non fece né l'una né l'altra cosa, ma si sbarazzò della faccenda promettendo agevolazioni a un progetto di legge privato che sapeva, come lo sapevano tutti, avere poche possibilità di passare. Un progetto di legge privato non aveva chance, neppure con tutte le agevolazioni, per una serie di motivi, ma soprattutto perché il siluramento del Conciliation Bill aveva annientato definitivamente lo spirito di conciliazione con tutti i conservatori, i liberali e i radicali della Camera dei Comuni e le donne militanti e non militanti di tutto il regno. Avevano messo da parte le differenze di vedute e si erano accordati per giungere a un compromesso. Quando si stava dibattendo il secondo Conciliation Bill nel 1911, Lord Lytton aveva detto: se questo progetto di legge non va avanti, il movimento a favore del suffragio femminile non si fermerà, ma allo spirito di conciliazione di cui questo progetto è espressione, sarà distrutto e si aprirà una guerra in tutto il paese. Un conflitto furente, violento, feroce, rabbioso, anche se nessuno lo vuole. Le parole di Lord Lytton furono profetiche. A questo sfacciato imbroglio da parte del governo, il paese rispose con amara collera. Tutte le associazioni suffragiste si unirono nel chiedere al governo un provvedimento in favore del suffragio femminile, da presentare senza ulteriori ritardi. L'inutile promessa di agevolare un progetto di legge privato fu respinta con disprezzo e sdegno. Il Comitato Esecutivo delle Donne Liberali si riunì e fece ogni sforzo per far passare una risoluzione, minacciando l'uscita dell'intera federazione dal partito, ma non riuscì nell'intento e si limitò ad approvare una debole risoluzione di rammarico. Al tempo, le iscritte alla Women's Liberal Federation si aggiravano attorno alle 200.000 unità, e se il Comitato Esecutivo avesse fatto passare quella forte risoluzione, rifiutando di lavorare per il partito fino a quando il governo non avesse presentato una sua misura, il governo stesso sarebbe stato costretto a cedere. Non avrebbero potuto gestire il paese senza l'aiuto delle donne. Ma queste donne, molte di loro, erano mogli di uomini al servizio, servizio ben pagato del Partito Liberale. Molte di loro erano mogli di parlamentari liberali, non avevano abbastanza coraggio o intelligenza o spessore per dichiarare guerra come organismo unitario al governo. Le militanti dichiararono e procedettero istantaneamente a metterla in atto una guerra spietata. Annunciammo che se non avessimo avuto subito un provvedimento del governo o una spaccatura del gabinetto, con l'uscita di quegli uomini del gabinetto che si definivano suffragisti, avremmo diseppellito l'ascia di guerra, per non seppellirla mai più fino a quando non si fosse conquistato il diritto di voto delle donne d'Inghilterra. Fu in questo periodo, febbraio 1913, che cominciò la militanza come oggi è veramente nota al pubblico. Militanza nel senso di continua, distruttiva guerriglia contro il governo attraverso il danneggiamento della proprietà privata. Alcune proprietà erano state distrutte prima di questo momento, ma gli attacchi erano stati sporadici e concepiti come avvertimenti nell'ottica di fissare una linea politica stabile. Adesso invece accendiamo la torcia. E lo facevamo nell'assoluta convinzione che per noi non c'erano alternative. Avevamo provato in tutti i modi, come penso di aver dimostrato ai miei lettori, e i nostri anni di impegno, sofferenze e sacrifici ci avevano insegnato che il governo non si sarebbe piegato al diritto e alla giustizia, a ciò che la maggioranza dei membri della Camera dei Comuni ammetteva essere giusto e corretto, ma che il governo si sarebbe invece piegato, come fanno invariabilmente tutti i governi, alla convenienza. Ora, il nostro compito era di dimostrare al governo che era conveniente cedere alle giuste richieste delle donne. Per raggiungere questo scopo, dovevamo rendere l'Inghilterra e ogni settore della vita inglese instabile e pericoloso. Dovevamo far fallire la legislazione inglese e rendere una farsa i teatrini comici dei tribunali. Dovevamo screditare il governo e il Parlamento agli occhi del mondo. Dovevamo avvelenare gli sport inglesi, compromettere gli affari, distruggere i beni di valore. Demoralizzare l'organizzazione sociale, disonorare le chiese, sconvolgere tutti i regolari codici di condotta. Cioè, dovevamo spingere questa guerriglia al limite della tolleranza del popolo inglese. Quando il popolo fosse arrivato al punto di dire al governo: fermate tutto questo, nell'unico modo in cui può essere fermato, concedendo alle donne il diritto di rappresentanza, solo allora avremo spento la torcia. Gli americani più di tutti dovrebbero comprendere la logica del nostro ragionamento. C'è un brano dell'oratoria americana, amato dagli studenti, che è stato spesso citato sui palchi degli attivisti. In un discorso ormai incluso tra i classici della lingua inglese, il grande statista Patrick Henry sintetizzò le cause che avevano portato alla rivoluzione americana. Disse: abbiamo presentato petizioni, abbiamo protestato, abbiamo supplicato, ci siamo prostrati ai piedi del trono. Ed è stato tutto inutile. Dobbiamo combattere. Lo ripeto, signore, dobbiamo combattere. Patrick Henry, ricorderete, esortava a uccidere le persone, così come a distruggere la proprietà privata, come mezzi idonei a garantire la libertà politica degli uomini. Le suffragette non lo hanno mai fatto e mai lo faranno. Lo spirito guida della militanza è piuttosto il profondo e assoluto rispetto della vita umana. Nell'ultima fase del nostro attivismo ho invitato a discutere le nostre politiche tanti illustri uomini, politici, letterati, avvocati, scienziati, ecclesiastici. Uno di questi ultimi, un alto dignitario della Chiesa d'Inghilterra, mi disse che pur essendo un convinto suffragista, gli era impossibile giustificare il modo sbagliato con cui volevamo affermare i nostri diritti. Gli dissi: non stiamo sbagliando, stiamo facendo la cosa giusta usando i nostri metodi rivoluzionari contro la proprietà privata. Il nostro impegno è di ripristinare i valori autentici, di enfatizzare il valore dei diritti umani contro i diritti della proprietà. Voi sapete bene, signore, che la proprietà ha assunto un valore agli occhi degli uomini e agli occhi della legge che non dovrebbe mai avere. È posta al di sopra dei valori umani. La vita e la salute, la felicità e anche la virtù delle donne e dei bambini, vale a dire la razza stessa, sono brutalmente sacrificati al dio della proprietà ogni giorno su questo mondo. Su questo punto il mio amico reverendo concordò e io dissi: se le donne sbagliano a distruggere la proprietà privata al fine di poter vedere ripristinati i valori umani, allora dico, con tutto il rispetto, che sbagliò anche il fondatore della cristianità a distruggere la proprietà privata, come lui fece quando scacciò i mercanti dal tempio e quando spinse verso il mare i maiali dei Gerasene. Fu con questo spirito che le donne entrarono in guerra. Nel primo mese di guerriglia fu danneggiata e distrutta un'enorme quantità di proprietà private. Il 31 gennaio furono bruciati con l'acido vari green dei campi da golf e il 7 e l'8 febbraio furono tagliati in vari punti i cavi del telefono e del telegrafo e tutte le comunicazioni tra Londra e Glasgow furono interrotte per diverse ore. Pochi giorni dopo furono rotte le finestre di alcuni dei club più eleganti di Londra e furono buttate giù le serre delle ortiche di Kew. E molti fiori di valore andarono a male per il freddo. La stanza dei gioielli della Tower of London fu invasa e una teca fu mandata in frantumi. Furono sfasciate anche le finestre delle residenze di Sua Altezza Reale il Principe Cristiano e Lambeth Palace, sede dell'Arcivescovo di Canterbury. Il salone delle feste di Regent's Park fu raso al suolo il 12 febbraio e il 18 febbraio una casa di campagna che era in costruzione per Lloyd George e Walton on the Hill fu parzialmente distrutta da una bomba esplosa nelle prime ore del mattino, prima dell'arrivo degli operai. Un fermaglio da cappello e una molletta per capelli, rinvenuti vicino alla casa, insieme al fatto che si erano prese delle precauzioni per non arrecare danni alle persone, fecero supporre alla polizia che il gesto era stato opera delle donne nemiche di Lloyd George. 4 giorni dopo fu arrestata e condotta al tribunale di polizia di Epsom, dove fui accusata di avere consigliato e incaricato le persone che avevano procurato il danno. Concessemi la libertà su cauzione per la notte, il mattino seguente mi presentai davanti alla corte, dove il caso fu esaminato per intero. Fu data lettura di alcuni miei discorsi, in uno dei quali, fatto durante la riunione del 22 gennaio, invitavo le volontarie ad agire insieme a me in una particolare impresa. In un altro, tenuto il giorno dopo l'esplosione, riconoscevo pubblicamente la mia responsabilità per tutti i gesti militanti fatti in passato e anche per quello che era successo a Walton. Alla conclusione degli atti fu rimandata a processo all'assise di maggio a Guildford. Mi si concedeva il diritto di avvalermi della cauzione, fu dichiarato, se avessi preso il solito impegno di rinunciare alla militanza e all'incitamento alla militanza. Feci richiesta affinché la causa fosse sottoposta a un processo rapido nell'assise allora in corso. Ero pienamente disponibile, dissi, a impegnarmi per un breve periodo, per una settimana o anche per 2 settimane, ma non potevo farlo per un periodo più lungo, considerando il fatto che a marzo si sarebbe aperta una nuova sessione del Parlamento, assolutamente vitale per gli interessi delle donne. La domanda fu respinta e fu emesso l'ordine di condurmi a Holloway. Avvertì il magistrato che avrei subito cominciato lo sciopero della fame e gli dissi che seppure fossero riusciti a tenermi in vita fino all'estate, al processo avrebbero visto comparire una donna morente. Arrivata a Holloway, attuai il mio proposito, ma nel giro di 24 ore venni a sapere che le autorità avevano disposto che il mio processo si sarebbe tenuto il 1° di aprile, anziché alla fine di giugno, e alla Central Criminal Court di Londra, anziché al Tribunale di Guildford. A quel punto feci la mia promessa di astenermi dalla militanza e fui immediatamente rilasciata su cauzione.